Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 7 minuti quasi, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero, pronti come sempre a introdurre l'argomento, ma prima vi ricordo anche oggi alle 11.30 Picasso in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa il bellissimo, devo dire, catalogo della mostra di Picasso, mostra che è a Milano e che potrete visitare gratuitamente con tanto di catalogo se riuscirete a scoprire il titolo dell'opera che si nasconde nell'indizio che vi darò. L'indizio è una canzone e possiamo ascoltarne una, tanto per farvi capire quale sarà il primo di oggi. Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne incomincia a quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Uomini non cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché, invece perché stavo ferma e zitta, ma ho scoperto con il tempo e diventando un po' più dura che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Gli uomini non cambiano, fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono come noi, che questo non è l'indizio di Picasso in 24 minuti, lo ascolteremo poi alle 11:30, ma era la canzone che introduceva l'argomento di oggi, e l'argomento sono proprio gli uomini. Avevamo fatto qualche tempo fa una puntata dedicata esclusivamente alle donne, erano tra l'altro le donne viste dagli uomini, e invece oggi abbiamo gli uomini tendenzialmente visti dalle donne, però non soltanto. Adesso tra poco mi introdurrò anche l'ospite che è qui con me in studio. Io voglio ricordarvi comunque sia il numero verde adesso per giocare con Picasso 24 minuti alle 11:30. Potete prenotarvi fin da adesso, 800 24 00 24 è il numero per prenotarvi. Allora, oggi parliamo quindi di uomini, per capire un po' come siamo, perché per capire come siamo, come sempre, ci vogliono gli occhi esterni. È vero che tu sei un uomo e forse non dovresti parlarne. Ciao Marco Basileo. Buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Allora, tu però sei un uomo, ma sei anche il direttore di Playboy Italia. Ecco, io ho scelto Playboy, ce ne sono tante riviste dedicate al mondo maschile. Sì. Ho scelto Playboy perché è la rivista maschile per antonomasia. È la quintessenza, sì, è così, è la rivista che ha inventato tutto. Non esistevano riviste maschili prima che Hugh Hefner inventasse questo prodotto. C'è una curiosità interessante, sì, legata a questa rivista. Quando Hefner nel 53 inventò questo giornale, che era tutto in bianco e nero, tranne una pagina a colori, che era quella con Marilyn Monroe sdraiata sui lenzuoli di seta rossa. È la foto che tutti conosciamo. Sì, è quella che tutti conosciamo, è veramente diventata iconografica, è una specie di chiaroveggenza del mondo editoriale maschile. Quando lui inventò questa rivista, era certo che la censura gliel'avrebbe bloccata, sì, e uscì senza data, uscì a dicembre, ma non c'era scritto primo numero, non c'era scritto nulla, lui era convinto che non sarebbe uscito un secondo numero. Invece ha inventato un genere editoriale principalmente. Esatto, cioè da Playboy in poi sono nate le riviste per gli uomini. È cambiato tutto, sì, da quel punto lì. Esistevano invece le riviste per le donne? Sì, esistevano, sì, riviste, queste esistevano anche nell'anteguerra, sono continuate a uscire durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. In Francia Elle usciva regolarmente nonostante le bombe, perché probabilmente per le donne era interessante sempre avere spunti. I maschi non avevano bisogno di queste cose, non li cercavano neanche. I maschi che leggevano cercavano spunti intellettuali principalmente. Sì. Quando è arrivato Hefner con questa bomba, cioè offrire per la prima volta agli occhi dei lettori maschili un sogno, qualcosa che non era possibile concepire a quell'epoca, ha avuto l'effetto di una bomba atomica. Dopo è davvero cambiato tutto lì. Ecco, l'idea è, cioè la situazione che si fa è Playboy nudo, sì, ma non è per forza così, non può, è solo questo, non può essere così, non deve essere così. Ma già storicamente Playboy pubblicava interviste di Truman Capote, di William Faulkner, di Robert Sheckley, Isaac Asimov. I collaboratori di Playboy in America erano nomi sensazionali. Era anche obbligatorio in un certo senso, non potevi offrire soltanto una versione stereotipata delle donne, dovevi anche, come dire, aumentare il carico con pezzi di intelletto meravigliosi. È stato questo che ha fatto la fortuna in realtà di Playboy negli Stati Uniti, offrire l'elemento di intrattenimento femminile, cioè permettere agli uomini di poter osservare bellezze fotografate. Peraltro le foto non sono prese col teleobiettivo, c'è sempre un mutuo accordo, sì, tra il fotografo e la modella, chiaro, certo. Quindi anche la modella che si pone, diciamo, senza inibizioni nei confronti della vita, del progetto, del fotografo, del giornale, tutto quello che vuoi. Però accanto a questo dovevano esserci contributi. Anche perché tutto comunque è fatto con estrema eleganza, sempre, cioè non c'è sempre mai volgarità. Non deve esserci, anche se la volgarità è un concetto astratto, sai, è persino difficile da definire. Quello che per me è elegante e raffinato, per te può essere volgare e becero, c'è sempre un confine. In realtà la difficoltà del lavoro è proprio questa. Cercare di fare in modo che ci sia elegante per tutti. Esatto, dici? Sì, sì. Un'universalità in sì, questo sì, senso. Sì, rivolgendosi agli uomini, ma sai, gli uomini sono così complessi, ne parliamo proprio questa mattina. Sì. No, devo dire che Playboy è riuscita internazionalmente a imporsi talmente tanto che posare per la copertina di Playboy è di grande prestigio, lo è stato per tantissime donne. Sì, sì, ancora adesso. Devo dirti che i tempi sono cambiati, sono, ecco, poi di questo parleremo, come sono forse cambiati gli uomini, quindi è cambiata anche la rivista. Donne, esattamente. Ecco, ok. Allora, stiamo avanti, mi stavo preparando su un'altra cosa, non importa. Allora, il numero per i vostri SMS 349-238-6666, perché appunto parliamo degli uomini, avrete sicuramente anche voi le vostre opinioni, le vogliamo sentire. Avremo tanti ospiti come al solito, gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Oggi nel Riposo del Guerriero parliamo di uomini. Con me c'è Marco Basileo, che è il direttore editoriale di Playboy Italia. E, Marco, a parte il fatto che avevo promesso agli ascoltatori una puntata sugli uomini, avendone fatta una sulle donne, sì, donne raccontate dagli uomini, e oggi avremo un po' gli uomini raccontati dalle donne. Tu sei un caso un po' a parte come ospite in questo senso, però insomma sei rappresentativo di una realtà che tutti conosciamo. E, io ho preso spunto anche da una pubblicità che mi ha veramente colpito tanto per la scelta che c'è, che credo insomma di intuire alle spalle, ed è questa. It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Chanel number 5. Ecco, l'ha detto. Ecco, l'ha finito. Ecco, no, poi c'era anche la chiosa finale. La voce è quella, per noi quasi riconoscibile, di Brad Pitt, perché noi da noi viene doppiato e quindi non sappiamo, esatto, che è la sua, certo, voce. È un po' la voce come te, Maria. Trovi, sì, addirittura. Sì, così. Beh, anche tu potresti fare lo spot di Chanel numero, grazie, 5. Grazie. No, allora, il fatto è questo. Si è scelto per un profumo che identifica le donne, e non, e curiosamente la prima donna fotografata in Playboy, nel primo Playboy, è stata la pagina centrale, hai detto prima, Marilyn Monroe. Chanel numero 5 era il profumo che vestiva Marilyn, e curiosamente per la prima volta, credo che sia la prima, comunque per un profumo così importante e assolutamente femminile viene scelto un testimonial maschile che non dovrebbe, non lo usa. È interessante, no? curioso. Ecco, aspetta, abbiamo un problema sul microfono, lo cambiamo, ecco, mettiti al microfono vicino, eccolo là. Questo? Ecco, sì, ci va, sei bene? Ben, benissimo. Perfetto, ecco, ti, grazie, sentiamo, grazie, scusa. È curioso questo, no? Che sia stato scelto un testimonial maschile per un profumo, esatto, così, così straordinariamente femminile. Pensa che io, Chanel, la storia del profumo è veramente divertente. Peraltro Chanel fece preparare ai suoi chimici una batteria di profumi diversi, e poi che fece solo semplicemente numerare uno diverso dall'altro. Lei scelse il 5 come profumo migliore. Ecco, io trovo l'impressione che ci sia una specie di femminilizzazione degli uomini ormai, no? È diventato un mondo femminile, molto più femminile di quello che abbiamo impressione che sia. Voglio farti un esempio un po' provocatorio. Sì. Supponiamo che adesso io dica qui ai tuoi ascoltatori, dica a tutti, allora, dica una frase anche piuttosto banale che sentiamo frequentemente ormai. Allora, le donne sono più intelligenti degli uomini. Mm. Certamente questa frase raccoglierà interesse, approvazione, è vero, Marco ha ragione, tutto vero, le donne sono chiaramente... Se dovessi dire il contrario, gli uomini sono più intelligenti delle donne, creerei un putiferio, verremmo probabilmente insultati. È curioso che... nel 2013 ancora, no? Noi siamo costretti a fare differenza di genere tra i sessi. Un sesso è migliore dell'altro, un sesso è più intelligente dell'altro. Però è quello che sta accadendo. I sessi si stanno, come dire, stanno appianando le differenze. Scegliere Brad Pitt per un profumo femminile, cosa vuole trasmettere in realtà? Il fatto che gli uomini siano pronti anche a indossarlo, che siano molto più vicini alla loro parte femminile? In realtà è, secondo me, il sinonimo di una grande confusione. Erika Rosio, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica anche a voi. Hai ascoltato le parole di Marco Basileo? Ho ascoltato assolutamente. Come non le commenti? Non sono d'accordo. Non sei d'accordo. Allora, trovo che primo sia una geniale strategia di marketing, tant'è vero che noi siamo qui a parlarne, tant'è vero che Vanity ha fatto la copertina, tant'è vero che io ho postato la foto di Brad Pitt che pubblicizza il profumo sulla mia pagina Facebook, e mi hanno risposto in 100 altri iscritti a Facebook, e la mia domanda era proprio quella di dire: ma perché c'è lui? Qual è il messaggio subliminale? E il messaggio è banalissimo: tu metti questo profumo, passa uno come Brad Pitt e ti guarda. Anch'io l'ho letta così. Anch'io palese. L'ho letta così, però devo dire che Marco è stato bravo a vestirla, cioè a cercare di vedere da un altro punto di vista. E mi piace perché il Riposo del Guerriero di solito ha questa cerca di fare questo, di vedere le cose anche da altri punti di vista. Intanto, Erika Rosa, ti devo presentare. Non l'ho fatto, sono entrato così a gamba tesa, ma perché volevo entrare subito nel dibattito. Erika Rosa è giornalista di Gioia, e quindi parleremo anche di questo, ma anche autrice di un romanzo da pochissimo pubblicato, edito da Dalai, che è L'uomo sbagliato. Ci vuoi raccontare intanto la sinossi del romanzo, perché L'uomo sbagliato? Allora, il romanzo racconta la storia di una sbandata, una donna sposata, felice, milanese, bella famiglia, bel lavoro, tutto perfetto, tutto controllato, tutto sotto controllo. A un certo punto arriva questo personaggio da romanzo, che è un imprenditore pugliese, bellissimo, bello come un dio greco, viene detto, con buona pace del feuilleton, e succedono quelle cose che a volte nella vita capitano e non puoi assolutamente andare da un'altra parte se solo hai un briciolo di coraggio, e iniziano questa storia travolgente di passione che poi diventa anche amore e che ti rovina un po' la vita, perché insomma poi devi tenere assieme i pezzi del resto, anche perché nessuno dei due, né lei né lui, vogliono buttare a mare le famiglie che hanno costruito, a cui sono affezionati. E questo è l'uomo sbagliato perché ti mette in un sacco di guai. Poi da un certo punto di vista è anche l'uomo giusto, perché ti permette di buttare alle ortiche quel controllo che secondo me noi donne di oggi stiamo coltivando con eccessiva ossessione. Ecco, Erika, Marco prima diceva anche della differenza dei sessi, cioè la tendenza a fare in modo che non ci sia così una forte differenza di genere, e invece continuiamo a sottolinearla. Sei d'accordo su questo o no? Questo è un discorso un po' più articolato, sì. Diciamo che da un punto di vista di immagine ed estetico, per quella che è la tirannia del mondo di oggi, c'è stata una femminilizzazione dell'uomo, nel senso che anche l'uomo deve stare attento a come si presenta, per cui la cura, diciamo, del corpo e la cura dell'aspetto, che una volta erano soprattutto femminili, sono diventate anche maschili. Credo che questo abbia portato a una femminilizzazione. L'altro, ovviamente, uragano è stato il femminismo, che ha buttato via e ha proprio incrinato le basi della sicurezza maschile da un certo punto di vista, perché le donne hanno cominciato dagli anni 70 in poi a mettere in crisi tutte quelle che erano le sicurezze nei giochi di potere degli uomini, cioè quella che era la superiorità, diciamolo, no, del maschile, perché c'erano certe professioni che potevano accedere solo gli uomini, perché chi portava i soldi a casa era l'uomo, eccetera eccetera. E quindi negli ultimi 50 anni c'è stata una rivoluzione dal punto di vista del costume che mai era avvenuta prima. Quindi le donne che man mano si sono affacciate al mondo esterno, perché prima erano confinate fra la cucina e la camera da letto, sono riuscite a far vedere che cosa valeva. Dal momento che avevamo alle spalle migliaia di anni come pentola a pressione, che non abbiamo potuto mai dimostrare che cosa valevamo, alla fine arrivi all'università, cioè mettiti nei panni di una ragazza iraniana col burka che arriva all'università e santo cielo, questa deve far vedere che è brava, altro che, no, perché è stata talmente tanta la fatica, anche quella che senti nei geni, perché hai alle spalle migliaia di anni di repressione, che a quel punto fai vedere che cosa vali. Non è che si dica che le donne sono più intelligenti, sono più disciplinate, più serie e più organizzate, questo credo di sì. Credo che se ci fossero delle donne al potere in Italia, non è che il paese cambierebbe, ma qualche cosa di più ordinato e razionale e più semplificato sicuramente ci sarebbe. No, ecco, Marco diceva, quando si dice questo siamo tutti universalmente, tendenzialmente d'accordo, assolutamente sì. Se lui per provocazione diceva, se dicessi il contrario scatenerei un putiferio, no? Ma da un certo punto di vista c'è dei dati oggettivi. Io ho un amico che è Roberto Grandi, che insegna all'Università di Bologna e che per 2 mesi all'anno insegna a Shanghai, e quindi ha dei dati di numeri altissimi, perché lì sono cinesi, sì. Sono le donne quelle che stanno andando meglio nelle università, cioè proprio sul grande numero, quella è una statistica, si può dire, oggettiva. Quindi a scuola vanno meglio le donne. Sì, era solo una provocazione, infatti lui dice una provocazione, nel senso dice, però se dici il contrario scateni, ma non perché sia vero o meno vero, però comunque scateni veramente il dibattito, no? Ecco, la discussione, anche guarda, la rabbia, magari. Io non sono d'accordo sul fatto che sia giusto, sono da una parte sì d'accordo nel fatto che sia giusto considerare gli uomini e le donne come persone quando si tratta, sì, di giochi di lavoro e di giochi sociali. Credo che nei rapporti personali sia un peccato mortale il fatto di dimenticare che ci sono gli uomini e le donne. Ecco, infatti il tuo libro, infatti hai scritto un libro proprio su questo, no? In sì, fondo. Esattamente. Come ultima domanda, Erika, volevo chiederti questo, da giornalista di Gioia, quando parlate degli uomini, come le lettrici vogliono o desiderano che si parli degli uomini? Se vogliono che se ne parli, ovviamente. Ma io sì, vogliono sicuramente che se ne parli, come succede fra amiche, perché quando ti trovi per un tè, una dice, ho incontrato uno in treno, e poi cos'è successo? Per cui diciamo che l'atteggiamento della lettrice è un po' lo stesso. Io questa settimana ho fatto un'intervista doppia ad Alessandro Gassman e Raoul Bova, che è la storia di Copertina, in cui raccontano come sono, raccontano il loro essere anche uomini, e sono due uomini atipici, perché tu ti immagini il bello dannato e infedele, loro invece sono belli, fedelissimi, sposatissimi e per bene. E quindi non sempre gli uomini vanno raccontati secondo quelli che sono i pregiudizi, e ogni volta che io ho intervistato un uomo, ne ho intervistati tantissimi, anche settimana scorsa avevo fatto Valerio Mastandrea, che oltretutto è sullo schermo in tre ruoli maschili di uomo in crisi, di famigerato uomo moderno, come mi ha detto lui nell'intervista, ecco, io cerco di andare proprio un po' a fondo, di fargli tirar fuori quelle cose che non tirano fuori così tanto volentieri. Infatti alla fine Valerio mi ha detto, sono stato sincero e un po' mi è anche dispiaciuto, perché credo che far parlare un uomo alla fine sia interessante per noi donne, sapere anche che cosa pensate, perché non è vero che voi giocate soltanto a calcetto, no? Non si può dire così, ti sembra? No, siamo su, penso proprio d'accordo, Marco, come siamo, rispondi? Siamo d'accordo, ma devo dire, Erika, giusto? Sì, ha fatto un, ha una visione molto lucida, in effetti io sono d'accordo con lei, basta ricordare che fino al 1946 le donne in Italia non avevano neanche il diritto di voto, dunque erano davvero confinate alla cucina, quindi c'è stato uno stravolgimento che chiaramente ha sconvolto la parte maschile dell'umanità, che per secoli, per millenni è stato abituato a dominare fisicamente le donne, quindi è tutto accaduto molto rapidamente. Dopodiché, sai, questo è un argomento talmente vario e complesso, è vero, sì, molti uomini non si limitano a parlare di calcetto, è vero anche però che in realtà gli uomini sono molto più, diciamo, meno pignoli delle donne, hanno questo atteggiamento che veramente, io direi che se posso provare a fare, a spiegare quello che sto cercando di dire, io ho l'impressione che uomini e donne siano diversi per un motivo molto semplice, gli uomini hanno una soggettività, anche quella che noi conosciamo, anche tu Stefano, che è quella che ci fa fare le cose, no? Ci fa andare in giro, ci fa vedere gli amici, ci fa andare allo stadio, ci fa giocare a calcetto, ci fa parlare di noi. Anche le donne hanno una questa soggettività che le fa vivere autonomamente la vita che preferiscono. A differenza nostra, però, le donne hanno anche una seconda soggettività, che è quella legata alla propagazione della specie. Queste due soggettività nella donna spesso entrano in conflitto, no? E quindi per noi diventano incomprensibili, perché ci manca un pezzo per capirle. Io direi che la difficoltà è tutta in questo. Ecco, con noi insomma, oggi parliamo degli uomini, per chiosare e poi dare la pubblicità, Erika, Marco dice, a noi manca quel pezzo per capirvi, sei d'accordo? Sono d'accordo fino a un certo punto, perché un bambino si può meravigliosamente fare in due. Però credo che gli uomini siano ancora un po' smarriti di fronte al mistero e anche all'onnipotenza del dare la vita. Ma se ci mettete un pochino di buona volontà potete farcela. Ce la facciamo. Ma secondo me facciamo, potete farcela. Siamo meno intelligenti, quindi ci vuole più tempo. Sì, anche perché se non si riescono a fare questi passi, se non si riesce ad accettare l'indipendenza della donna, si vede bene quello che sta succedendo, cioè tutti questi femminicidi, questi omicidi di donne nascono proprio da un'insicurezza, da una debolezza maschile di non sapere interiorizzare e accettare quello che è il cambiamento femminile e un pezzo di potere, non so se uguale, ma insomma ci stiamo arrivando. Cioè se voi accettate questo, tutto è più sereno e forse possono anche finire questi atroci e orrendi omicidi che stanno insanguinando vergognosamente ancora il nostro paese. Erika Rosio, grazie. Io ricordo grazie anche il romanzo L'uomo sbagliato. Buona domenica, grazie ancora. Grazie a voi. C'è la pubblicità, ma sai Marco, ci sono una valanga, veramente tanti sms, vi ricordo anche la pagina di Facebook del Riposo del Guerriero, e c'è una donna che scrive, i primi nemici delle donne sono i giornali femminili, ma noi stiamo parlando di uomini oggi, e quindi non stiamo parlando di donne. È curioso come la puntata sugli uomini si stia parlando di donne. È no, così, dobbiamo sì. parlare di uomini, quindi chiedo anche alle ascoltatrici che forse non vedono l'ora di parlare di uomini e non di donne tra pochissimo. Il riposo del guerriero. Oggi stiamo parlando di uomini, abbiamo fatto una puntata dedicata al mondo delle donne, alle donne appunto, e invece oggi parliamo degli uomini, di come sono questi uomini. Arrivano tanti messaggi, è ovvio, quando si parla di generi è sempre così. Con me c'è Marco Basileo, il direttore editoriale di Playboy Italia, perché Playboy comunque rappresenta la rivista per gli uomini per antonomasia, insomma tutti ovviamente la conoscono, anzi è quella che poi ha inventato il genere, come ci raccontava Marco, delle riviste maschili. Com'è cambiata la rivista nei suoi contenuti? Se è cambiata, le donne a parte ovviamente, parliamo dei contenuti scritti perché sono tanti, cioè Playboy non sono soltanto foto di donne. No, per fortuna ecco, no, per fortuna esatto, no. Anzi ci raccontavi che c'erano anche molto firme, ci sono sempre state firme anche molto importanti. Sempre, a scrivere. Sì. E di cosa si parla oggi rispetto al passato? Gli argomenti sono sempre gli stessi o sono cambiati? Guarda, Playboy, diciamo, Playboy fin dal 53 rappresenta in un certo senso quello che gli uomini desiderano. È una rivista di intrattenimento e dunque tende a non trattare argomenti troppo tragici o che comunque sì, possano lasciare certo. troppo il segno, no? È difficile dover raccontare cose tristi su Playboy, anche se in realtà il giornale in sé, in tutte le sue edizioni internazionali, ha una lunga storia di reportage impegnati che parlano di economia o di violenza. Insomma, ad esempio, prima Erika citava il femminicidio, no? Che sta prendendo dimensioni preoccupanti, no? Poco tempo fa leggevo una specie di reportage da Ciudad Juarez, la città messicana dove si è attestato il maggior traffico di scambio di stupefacenti sul confine tra la California e il Messico. E lì c'è un femminicidio continuo perché molte di queste donne che lavorano per i vari cartelli vengono uccise in continuazione. Lì il fenomeno ha una dimensione agghiacciante e qui sta diventando preoccupante. Dunque, talvolta Playboy ha dovuto occuparsi anche di temi che sono legati alla società, alla realtà. Playboy in realtà racconta la realtà, non soltanto dal punto di vista femminile, cioè cercando di individuare, scoprire, raccontare, svelare le bellezze più affascinanti, no? Che circolano. Beh, questa è una parte, esattamente. Ovviamente. È cambiato il modo di raccontarle. Sì. È cambiato l'atteggiamento. È cambiato il modo di leggere, principalmente, negli ultimi anni. Non abbiamo più tutti noi lettori, adesso parlo anche da lettore di giornali, non soltanto da uno che li fa, no? È cambiato proprio il modo di leggere i giornali, dunque anche le informazioni, siamo, come dire, sommersi da informazioni, no? Molte delle quali sono superflue, sono inutili. È come se fosse venuto a cadere una specie di filtro che mette il lettore nelle condizioni di capire quali sono le informazioni utili e quelle inutili. Playboy svolge ancora questo ruolo, ci prova quantomeno. Noi sveliamo ragazze che si pongono senza inibizioni e raccontiamo storie che magari altri giornali non possono raccontare perché hanno paura di affrontare certi temi o perché certi temi sono diventati scomodi o scottanti e sono non semplicemente solo legati alla sessualità. Ecco, questo è quindi il lettore medio, quindi diciamo il maschio, sì. Ok, per usare un termine che uso sì. volutamente, che legge Playboy si aspetta di trovare questi argomenti all'interno della ma rivista. Sì, si aspetta di trovare questi argomenti e si aspetta di trovare un apporto di fotografie che ritraggono bellezze femminili. Le due cose insieme. Questo perché c'è una ragione molto specifica, sì. Perché per il maschio la parola eccesso non ha significato. Dunque, in passato sono stati tentati esperimenti simili, come dire, rivolti al pubblico femminile, banalmente riviste che si chiamavano Playgirl o qualcosa del sì. genere, che ritraevano maschi in posizioni, ma non funzionavano, perché per l'occhio femminile la nudità maschile non è così interessante, è interessante solo relativamente. Vediamo cosa pensa Daniela Farnese. Ciao Daniela, buona giornata. Buona giornata, buona domenica a tutti. Ciao Daniele, tu hai scritto un libro, scritto da 101 modi per far soffrire gli uomini. E la mia domanda sì, è esatto. Perché bisogna farli soffrire innanzitutto? Cioè, non ho capito perché è necessario, cioè bisogna insegnare come far soffrire gli uomini. Perché dobbiamo soffrire? Ma innanzitutto perché l'uomo, per sua stessa definizione, è un animale fallace, quindi l'idea che prima o poi sbaglierà nei nostri confronti ci spinge a praticamente un'azione di protezione preventiva, quindi lo facciamo soffrire prima e poi lo facciamo soffrire dopo quando ci tratta male. In realtà diciamo che è un manuale che insegna a difendersi durante tutto l'arco della relazione con un uomo, però in realtà sì, è un manuale ironico sulle relazioni di coppia. Parla dei difetti del maschio attraverso i difetti. Ecco, Daniela, secondo te quali sono i difetti del maschio? Perché oggi parliamo degli uomini, dobbiamo parlare proprio di questo, di come siamo, ecco. Ma secondo me il più grande difetto del maschio, non, per fortuna non di tutti i maschi, è il fatto di avere questo gigantesco ego che trascina sempre con sé in tutte le situazioni. Quindi forse quella è la cosa un po' più diciamo che mi accorgo che la maggior parte degli uomini rispetto alle donne è molto egocentrica. E poi, non lo so, secondo me, magari dico delle, ovviamente delle banalità, perché si generalizza su ecco, scusa, apro una parentesi su questo. È ovvio che quando si parla di generi, è successo, stavo dicendo prima anche con la puntata scorsa sul matrimonio, no? E per forza si dicono, tra virgolette, delle banalità, perché per forza bisogna generalizzare, però in qualche modo c'è un'opinione più presente rispetto ad altre, che è l'opinione pubblica, e quindi di quello stiamo parlando. Poi è ovvio che si generalizza, che ognuno è diverso e che non sono tutti così, però c'è uno zoccolo duro che o per pregiudizio o per verità resta, almeno nell'immaginario, se non nella realtà. Scusa, ti ho interrotta, ma per rispondere anche a molti messaggi che stanno arrivando, ecco. Continua. Sì, nei luoghi comuni si nascondono tante verità, quindi in realtà non a caso diventano comuni, ecco. E quindi tu dici, la prima cosa è questa, il fatto che l'uomo, secondo te, in generale ha un grande ego. E poi secondo me, diciamo che a prescindere dal fatto che la donna sia più portata al sacrificio e all'impegno, parlo ovviamente di relazioni di coppia, è anche vero che l'uomo è più magari è meno attento, è più disattento nel rapporto, soprattutto perché la donna glielo concede, quindi diciamo che sì, ecco, ha questo difetto di essere poco attento, però è colpa nostra, ragazze, siamo noi che glielo permettiamo. Allora, Daniela, grazie, e insomma spero che non abbiate bisogno di far soffrire gli uomini, perché mi sembra anche giusto, però ironicamente si può dire. I 101 modi per far soffrire gli uomini. Ciao Daniela, grazie. Ciao, grazie. Buona domenica, grazie. C'è sempre un po' questa cosa della difesa, no? Cioè le donne devono difendersi dagli uomini, e forse tutto questo è stato un po' costruito. Daniela Brancati, buona domenica. Buongiorno a te. Allora, Daniela ha scritto un libro molto interessante, si intitola Occhi di maschio, le donne, la televisione in Italia, una storia dal 1954 a oggi, l'edizione Donzelli. Allora, Daniela parte dal presupposto che siccome i luoghi di potere televisivi sono stati prettamente maschili, la donna in televisione è stata proposta sempre in un certo modo, o più giusto, Daniela? Ah sì, scusami. Pensavo non avessi finito la domanda. Sì, in effetti la donna è stata sempre proposta per uno sguardo maschile, cioè anche quando apparentemente la donna in televisione è protagonista, perché vediamo solo lei, eccetera, in realtà la telecamera, lei si muove alle indicazioni, diciamo, di un regista maschio, regista intendendosi quello che decide naturalmente, sì, e a favore di uno spettatore maschio, il che fra l'altro è un po' buffo, perché la maggior parte degli spettatori sono donne, e quindi è una contraddizione molto forte fra il potere di chi detiene il potere televisivo e invece le persone a cui sono effettivamente destinati i programmi. Ecco, no? Daniela, io proprio da qui volevo partire, siccome oggi parliamo degli uomini, e quindi secondo te, dall'analisi che bello, hai fatto, finalmente dall'analisi, ma come sono questi uomini, o come sono stati questi uomini che dal 54 a oggi hanno governato la televisione in generale? Allora, secondo uomini, il tuo punto di vista, ovviamente. Sì, no? Naturale, questo è logico, non pretendo che sia un punto di vista universale, però credo che su questo troverai d'accordo molte donne. Allora, gli uomini di potere, perché noi parliamo di questo, la storia della televisione è una storia del potere in Italia. In particolare la storia della televisione italiana si intreccia con la storia della politica italiana. Non per caso televisione e politica sono due attività molto maschili, entrambe, no? E quindi che cosa succede? Che la donna è stata sempre rappresentata in un certo modo. Come l'uomo, mi chiedi tu? Beh, l'uomo nella realtà è infinitamente migliore, per fortuna, rispetto all'uomo che detiene il potere in televisione. L'uomo che detiene il potere in televisione è un uomo che ha al momento scarsa fantasia, è un uomo che ha scarsa capacità di considerare le donne se non in modo strumentale. E io mi sono divertita tempo fa a pensare proprio questo. L'hai visto Celentano, l'ultimo Celentano in TV? Io no, purtroppo l'ho letto molto, ma non l'ho proprio visto. Ecco. Io l'ho visto e mi sono anche divertita. È stato un bellissimo spettacolo, una puntata meglio dell'altra, non importa. Che cosa ne ho dedotto? Che si possono fare 10 milioni, oltre credo il 50% sì, dell'audience di ascolto, senza far vedere donne nude, senza esibire le donne come delle povere cretine, ma semplicemente usando la propria creatività. Ricorderai il Benigni che leggeva Dante? Benigni leggeva Dante e non c'erano, mi sembra, donnine nude che lo circondassero. Ha fatto milioni di ascolto. Cosa intendo dire per questo? Che gli spettatori sono migliori di quanto i programmisti televisivi li immaginano. Ho risposto alla tua domanda? Sì, sì, beh, sicuramente sì. Se c'è, però insomma, questi uomini dovrebbero essere anche lì, poi sono gli stessi uomini, no? Che scendono dalla poltrona di direzione e dovrebbero essere uguali, invece no, quelli sono proprio non diversi, sono, perché guardi, è il potere che li fa cambiare. Oh, questo, assolutamente, sì. Guarda, il potere in Italia, e credo che ogni scandalo che ci viene svelato ci rivela sempre la stessa cosa. Il potere in Italia viene vissuto dalle persone che hanno il potere come la capacità e la possibilità di vivere una vita separata. Vedi mai una persona che ha il potere al mercato? Vedi mai una persona di potere che al più la possiamo vedere al mercato in campagna elettorale per dare dei volantini, ma una persona di potere che normalmente, come tutti noi, va un giorno a comprare il pesce al mercato non esiste, perché se fossero così la nostra politica e la nostra televisione non sarebbero ridotte come sono realmente ridotte. E questa è una cosa, ma mi lasci commentare invece quello che ha detto la Daniela che mi ha preceduto? Sì, possiamo mandare gli aggiornamenti sul traffico e poi fai il commento, Daniela? Ma naturalmente, certo. Grazie, poi magari facciamo commentare anche Marco Basileo, che è il direttore editoriale di Playboy e che ti sta ascoltando. Aggiornamenti sul traffico e poi torniamo. Il riposo del guerriero. Si parla di uomini oggi, in questo momento c'è Daniela Brancati, autrice di Occhi di maschio, le donne e la televisione in Italia. Daniela, tu volevi chiosare rispondendo all'autrice di prima che aveva scritto sì, 101 modi per far soffrire gli uomini. Ecco. No, io non pensavo tanto al modi di far soffrire sì, gli uomini quanto alla battuta con lei ha chiuso, sì, con cui lei ha chiuso, con la quale io sono totalmente d'accordo, e cioè se gli uomini di potere e non si comportano in quel modo, essenzialmente è colpa nostra, è colpa delle donne, perché chi ha il potere non lo cede volentieri, se lo tiene, e qui si bisognerà pur levarglielo questo potere. Considerato il fatto che noi siamo più della metà, beh, ragazze, o ci organizziamo oppure non possiamo, come dice Hillary Clinton, non dobbiamo fare le piagnone. Senti, un messaggio dice: gli uomini andrebbero ascoltati di più, sempre generalizzando, spesso ci aspettiamo da loro, quindi lo scrive una donna, pensieri e azioni che sono tutti femminili. No, no, noi ci dobbiamo aspettare invece e dobbiamo, io sono anche contenta che i generi siano due, no? Beh, sarei sì, infelice del contrario, e quindi noi dobbiamo essere tutti all'ascolto. Il problema in questo caso non è che noi non ascoltiamo gli uomini, quanto che gli uomini di potere, ripeto, sì, perché di questo stiamo parlando, insomma, in questo momento. Gli sì, altri uomini sono insomma diversamente si pongono, insomma, rispetto a questi temi, e dobbiamo aspettarci che siano gli uomini di potere a tutti i livelli ad essere all'ascolto, perché questa la frattura che c'è fra in queste cose nella società italiana, che è superiore alla frattura analoga che c'è nelle altre società, ci deve dire che questa frattura va ricomposta, e lo deve fare essenzialmente chi può quindi chi ha il potere. Sì, per questo come sempre, come in tutte le cose. Allora, Marco Basileo, direttore editoriale di Playboy, ha una sua opinione sul potere degli uomini. Sì, giusto? Relativamente proprio a questa questione. Ecco, vorrei questione. Che Daniele ascoltasse, sì, perché, sì, ecco, sì. Vogliamo. Certo. Sì, ma guarda, semplicemente in qualità di uomo, dunque, perché conosco i miei simili. Adesso io non vorrei darvi l'impressione che stia, come dire, rendendo la questione elementare, però temo che per i maschi la questione sia piuttosto cruciale. Dunque, in realtà io ho l'impressione che uomini e donne vivono davvero in mondi diversi e riporto la questione alla sessualità. Sì. Per i maschi il sesso è un'occasione, invece per le donne il sesso è una scelta. Le donne possono decidere chi frequentare. I maschi, per la maggior parte dei maschi che tutti noi conosciamo, i maschi non hanno questo diritto di scelta. Quando un uomo si trova all'improvviso in una condizione di potere e comincia a occupare una sedia che gli permette di prendere decisioni importanti, quel punto di vista cambia, quella condizione che l'ha, come dire, ha accompagnato tutta la vita, quello di essere soltanto succube di occasioni, o comunque fortunate o sfortunate, cambia completamente. L'uomo comincia a scegliere, e quando l'uomo comincia a scegliere, e non perde la testa. Ed è in questo senso che gli uomini di potere diventano così beceri, no? Anche agli occhi di Daniela, e propongono modelli di donna strumentale, no? Perché l'uomo comprende dalla sua poltrona di potere che per lui il sesso non è più un'occasione, è diventata una scelta. E quando l'uomo comincia a pensare in termini di scelta sessuale, non capisce più niente. Questo è, devo dire, è una missione di colpa. Sì, lo è. Simpatia. Però, detto questo, io invece penso degli uomini, penso un gran bene, quindi ritengo che gli uomini siano esseri pensanti anche dalla cintola in su e non solo dalla cintola in giù. E dico per questo che questo tipo di scelte fa torto anche a loro. Io, guarda, ritengo il motivo per cui ci sia questo eccesso di strumentalizzazione delle donne è perché c'è un difetto di creatività. Quando tu non sai come catturare l'ascolto, sbatti, come dicevano i vecchi pubblicitari, un bambino che piange o una donna nuda e il risultato ce l'avrai. E questo è il problema. Se gli uomini facessero un maggiore sforzo di creatività, ce la potremmo fare, io credo. E il secondo punto, perché non vorrei che si focalizzasse soltanto su questo aspetto delle nudità, di donne competenti è pieno il mondo, anche l'Italia. Allora perché io vedo un talk show di informazione e c'è l'uomo competente, vale a dire l'uomo che è lì rappresentato di un mestiere, di un sapere, eccetera, e la donna che invece fa da ornamento? Per cui abbiamo assistito addirittura a delle degenerazioni che, non so, si parlava di politica estera e siccome ha invitato la ballerina a esprimere il parere in politica estera è stata la ballerina. Naturalmente, se tu vuoi un parere, tra virgolette, generico, un parere della strada, nulla di male che ci sia la ballerina, ma non hai trovato una donna che possa esprimere un parere specifico, non ci posso credere, e che concepisci sempre solo l'ornamento. Grazie Daniela Brancati, ciao, buona domenica, buona giornata, ciao. Grazie. Abbiamo un minuto e mezzo purtroppo, Enrico Groppali, ciao Enrico. Ciao, come stai? Bene, grazie. Abbiamo veramente un minuto purtroppo, però insomma tu da esperto di spettacolo, teatro e cinema e che conosci molto bene le coppie di spettacolo, com'è che queste donne vedevano i loro partner maschili? Parliamo dei divi e delle dive dello spettacolo. Beh, Sofia Loren per esempio li vedeva con assoluta indifferenza, aveva anche più volte dichiarato che anche nelle scene d'amore lei semplicemente si comportava come si sarebbe comportato il personaggio. Naturalmente diceva che qualcuno le era più simpatico di qualcun altro, non so, che Gregory Peck era stato un compagno molto compito, molto gentile, molto educato, eccetera, ma il suo giudizio non ne andava al di là della schiera professionale. Mentre invece, non so, Elizabeth Taylor, anche prima di diventare la signora Burton, parlava con molto affetto anche dei suoi ex mariti, dato che in quel momento naturalmente non pensava né al divorzio né tantomeno a risposarsi. Parlava di Mike Todd, ma oltre che dei suoi mariti parlava anche di James Dean e di Rock Hudson, che furono entrambi i suoi partner nel famoso film Il Gigante. Ma stavo pensando invece che ci sono anche, scusate se vado un momento fuori tema, i divi e le dive del crimine. Nessuno per esempio si è mai preoccupato di sapere cosa pensasse, al di là dell'attentato che compì contro di lui, riuscendo soltanto a ferirlo per fortuna ma non ucciderlo, Valerie Solanas, l'autrice di Scam, nei confronti di Andy Warhol. la donna che sparò a Andy Warhol, e che era anche una femminista convinta, tant'è vero che anche in Italia, a distanza di molti anni, ormai anche la Solanas è morta, pubblicò il suo famoso SCUM, il manifesto delle donne che devono sopprimere gli uomini per affermare il proprio ego. Ecco, questo per esempio è un caso limite, naturalmente, perché la Solanas aveva tentato di fare l'attrice nella Factory di Andy Warhol, o ci sono addirittura delle donne che, nonostante delle grandi attrici, che nonostante abbiano avuto un grande successo cinematografico nella loro epoca, non hanno mai detto una parola né pro né contro i loro partner. Grazie, grazie Enrico Groppari, grazie davvero, ci hai lasciato con una domanda che adesso ci poniamo. Torniamo dopo il GR con Riposo del Guerriero. Il Riposo del Guerriero. Le 11:06, ancora buona domenica da Stefano Gallarini su Radio 24, continua il Riposo del Guerriero. Oggi parliamo di uomini. Volevo poi finire con Marco Beliseo, il direttore editoriale di Playboy, che è qui ospite, e anche con alcuni dei vostri messaggi. Prima però volevo farvi ascoltare l'indizio che non sono riuscito a farvi ascoltare all'inizio della puntata per Picasso in 24 minuti. Anche oggi, anche questa settimana, la possibilità di portarvi a casa il bellissimo catalogo della mostra di Picasso a Milano, con tanto di biglietto d'ingresso, se riuscite a individuare quale opera del grande artista è legata all'indizio che sto per farvi ascoltare. I Police, ormai chi si ricorda, ci sono Sting, in realtà ci sono stati i Police, non vanno assolutamente dimenticati. Message in the Battle, questo è l'indizio. Il numero verde per partecipare alle 11:30 800 24 00 24. Volevo leggere un messaggio di Antonio di Ravenna che scrive: le donne dicono spesso che gli uomini non riescono a capirle, cosa probabilmente vera, ma si piccano di conoscere gli uomini, e questo invece è spesso falso. Ma guai a far notare. Poi ci si lamenta che gli uomini sono in crisi di identità. Allora, Marco Basileo, per chiudere con come sono questi uomini secondo la rivista Playboy. Per chiudere io vorrei sbriciolare questo atteggiamento che, insomma, sembra generalizzato, no? Che vede gli uomini in crisi di identità. In realtà gli uomini non vivono nessuna crisi di identità, loro sanno esattamente che cosa vogliono. C'è una storia che mi ha raccontato un lettore, che poi noi abbiamo addirittura pubblicato perché era davvero divertente. È una storiella, però io direi che ha degli elementi di veridicità che sono piuttosto interessanti. E narra, racconta le vicende di un uomo molto ricco, che un giorno si trovò nella condizione di dover scegliere tra tre donne che sostenevano di essere innamoratissime di lui. Quindi lui decise di fare un esperimento, diede a ognuna di loro 10.000 euro. La prima comprò dei vestiti per se stessa e tornò da lui splendida ai suoi occhi e disse: guarda, io ho speso tutto per essere bellissima perché sono pazza di te, voglio che tu mi veda nel migliore dei modi. Sì. La seconda invece comprò dei vestiti per lui e gli disse: guarda, io voglio che tu sia bellissimo perché io voglio vederti sempre splendido perché sono pazza di te. La terza invece prese $10.000 e li moltiplicò sul mercato azionario e disse: guarda, io sono bravissima, ci so fare tantissimo con i soldi e voglio moltiplicarli per noi perché spero e sogno nel nostro futuro. L'uomo era molto impressionato da questi tre atteggiamenti e si prese alcuni giorni per decidere chi sposare, e alla fine, dopo lunghe rimuginazioni, scelse quella con le tette più grosse. Quindi siamo ancora una volta lì, non so cosa pensano i nostri ascoltatori, però Daniela Brancati aveva detto, insomma, capisco la missione di colpa e l'apprezzo anche. Marco Basileo, grazie. Grazie. Buona domenica. E adesso invece sì, parliamo ancora di uomini e lo facciamo con Francesca Dragotto, e senti chi parla. Freezing cold in Einstein's usual. Senti chi parla. Francesca Dragotto, ciao, buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti. Un senti chi parla difficile perché c'è stato un attacco a YouTube, quindi tutto il lavoro che era stato fatto si è perso nel vuoto. In gran parte, perché bisogna dire che l'acribia dello staff, della persona che stiamo per analizzare, l'acribia che si è protratta nel corso degli anni, ha fatto sì che si riuscissero a trovare dei duplicati. Ecco, quindi voi cercate di duplicare sempre, come ha fatto appunto il personaggio che tra poco scoprirete, rete, in modo che i video possano essere trovati anche su altre fonti. Oggi parliamo di formigoni. Oh, ma non dovevi dirlo, perché così mi rovini l'entrata. Volevo dire che il Dizionario dei Cognomi d'Italia di Enzo Caffarelli e Carla Marcato riferisce che il nome ha la base formica, da intendersi come nome comune, oppure formica con la maiuscola, nome di persona originatosi da un soprannome o comunque da un nome a cui è stato aggiunto il suffisso -one. La presenza nel corpo della parola della G, un suono prodotto con la gola, un suono velare, rivela una provenienza dall'area lombarda. Se fosse stato di Roma sarebbe stato Formiconi. Essendo nato a Lecco si chiama appunto Roberto Formigoni. Sentiamo quindi come parla, o più esattamente come comunica, Roberto Formigoni, il politico che ha fatto dell'uso e dell'abuso della comunicazione e soprattutto della nuova comunicazione una formidabile arma di proselitismo e reclutamento dell'elettorato. Pensavate che il caffè fosse caro? E oggi ci vogliono due caffè per comprare un litro di benzina. L'esposizione mediatica del presidente della Lombardia è stata negli ultimi anni tanta e tale da essere diventata un vero e proprio caso di comunicazione online. Se sia efficace o meno, fruttuoso o meno, felice o meno, cercheremo di capirlo attraverso un centone, un piccolo collage di pezzetti tratti dai più di 500 video che lo staff di Formigoni per la comunicazione ha reso disponibili su YouTube e in altre parti della rete, oltre che naturalmente sul sito personale del governatore, che è stato appunto oggetto di hackeraggio negli scorsi giorni. In tal modo, grazie a questa sovraesposizione, si è alimentato un vero e proprio dibattito sulla comunicazione del governatore della Lombardia, che da una parte vede addetti del settore e chiamiamoli smanettoni, quelli che sono avvezzi a muoversi all'interno della rete per cercare informazioni, materiali, e dall'altra tutti gli altri. Certo, quando si parla di scarpe, poi il pensiero, c'è sempre qualcuno che vuole farmi le scarpe, ma non ce la fa. Già a partire dallo spot che potremmo chiamare quello di Formigoni Pop, non può non notarsi la versatilità del personaggio impegnato a correre nella neve, tirare di scherma, ballare, fare il caffè, fare la benzina, mangiare salumi, parlare di calcio, soppesare scarpe all'interno di un negozio, non a caso alla fine del filmato. Le scarpe fungono infatti da vero e proprio gancio per una chiusa che ammicca ai modi di dire, al linguaggio dell'uso, alla lingua di tutti i giorni. Naturalmente mi riferisco all'espressione fare le scarpe, che il governatore non manca certo di farsi sfuggire. Ora, il dato interessante è la presenza all'interno di questo filmato di un riferimento ad un'altra performance canora, è quella del Formigoni Rap, Insieme per vincere. Ne sentiamo un pezzetto. Sono Roberto Formigoni, saremo tutti insieme amici e li batteremo sempre. Parlare della comunicazione di Formigoni, iniziamo a vederlo, è come fare metacomunicazione, uno studio su uno studio di comunicazione. Nulla è lasciato al caso, qualunque esibizione ha dietro di sé uno schema che di volta in volta va a riempirsi di materiali che naturalmente si devono adattare allo scopo cui è destinato il filmato stesso. Nei prossimi passaggi vedremo una serie di interventi che ho chiamato tutti in maniera riepilogativa gli interventi di Formigoni Fortuna. Presidente. Quando avete cacciato le cose vanno buone, e aspetta la funzione, e strade su pulite. Un travaglio c'è, e lo sapevo che fece. Che cosa? Fece sperare a me. Sì, addirittura. Programma per la regione, in sintesi, innovazione e apertura. Tutti alle une, perché con tutti alle une la Lombardia è ancora più forte e la faremo come ci piace e come piacerà al mondo. Formigoni for President 1, lo spot per i siciliani di Lombardia. Ha fatto sparire anche la nebbia, direi che questa è la parola chiave. Si tratta di uno spot che per certi versi sembrerebbe quasi un finto spot, ma che in realtà dà l'idea di come la comunicazione si attenta a rappresentare e a dare voce alle diverse componenti del tessuto sociale lombardo. Nel secondo elemento che abbiamo sentito abbiamo una chiosa al programma elettorale per le elezioni 2010. Direi che l'elemento chiave è innovazione e apertura, perché nel mondo che cambia vince solo chi innova e si apre. Si tratta di una tautologia, di una figura retorica che consiste in una sorta di insistenza che serve per far imprimere nella mente dell'ascoltatore il concetto, evitando però di ripeterlo letteralmente. Da notare in questo stesso passaggio è, per fare la Lombardia ancora più forte, e la faremo come ci piace e come piacerà al mondo. Una frase che ammicca, come succederà molto spesso, che ammicca allo spot, ai linguaggi della pubblicità. Io ho detto due cose, che istituirò questi due comitati. Uno, la task force contro la burocrazia. E secondo, nominerò il comitato conciliazione donna-lavoro per mettere in atto da subito delle pratiche per permettere alle nostre donne di scegliere liberamente e di non essere costrette forzatamente a rinunciare alla donna e lavoro. Adesso abbiamo Formigoni direttamente al seggio il giorno delle elezioni. Interessante l'uso di task force, una task force contro la burocrazia e un comitato conciliazione donna-lavoro per permettere alle nostre donne di non dover scegliere se rinunciare a donna o al lavoro. Si tratta chiaramente anche qui di una formula elettorale, ci saremmo aspettati di non dover scegliere se rinunciare ad essere donna o a lavorare, ma questo ci dà l'idea come ormai certi schemi della comunicazione pubblicitaria facciano integralmente parte dei metodi, degli stilemi e proprio degli stili comunicativi del governatore. La cosa che colpisce è non soltanto la naturalezza con cui queste espressioni vengono utilizzate, ma il fatto che se non ci si mette ad analizzarle fanno appunto talmente parte della costellazione dei modi di comunicare di Formigoni da apparire naturale, non ci si rende quasi conto del fatto che si tratta di plastismi, di espressioni che hanno un contenuto informativo basso, ma che occupano lo spazio, occupano il palcoscenico della comunicazione e soprattutto fanno presa su alcune parecchie fette del pubblico degli uditori. Che comunque nel complesso le considerazioni che abbiamo fatto possano avere una fondatezza, quindi che non importa che piaccia a chi di comunicazione si intende, l'importante è che piaccia a tutti quanti gli altri, ce lo dice il governatore stesso quando in risposta un po' piccata ad un tweet ha detto: in politica contano i voti. Il riposo del guerriero. Video game, video game. Il flagello del regno sta per invadere anche la città costiera di Dunwall. Se non si trova un rimedio, la peste sterminerà l'intera popolazione. Ma c'è qualcosa di ancora più oscuro del quale avere timore. Corvo, se solo ci fosse stato qualcun altro di cui fidarmi, ti avrei tenuto vicino a me. Ma purtroppo non c'era alternativa. E il capospia ha fatto pressioni affinché mandassi te. Vi parlo di Dishonored, disponibile per PC, Xbox e PlayStation 3. Un titolo giudicato da tutti come il migliore di quest'anno. Vediamo perché. La peste ci sta decimando e dobbiamo trovare una cura. Voi siete Corvo Attano, guardia del corpo dell'imperatrice, e siete appena tornati da un lungo viaggio nel regno alla ricerca di un elisir che possa sconfiggere finalmente la peste. Andiamo alla Dunwall Tower. Lord Corvo deve riferire delle novità all'imperatrice. Tanta strada per portare cattive notizie. Secondo i marinai siamo maledetti. Magia nera. In verità, il vostro allontanamento aveva un secondo fine, quello di non permettervi di proteggere l'imperatrice dai cospiratori, che vogliono destituirla e ucciderla. E peccato che siete tornati dal viaggio due giorni prima del previsto. Assisterete così all'assassinio dell'imperatrice e al rapimento di sua figlia Emily, e verrete incolpati di essere voi l'assassino. Dove sono le guardie? Chi le ha allontanate? Mamma, guarda! Che stanno facendo sul tetto? Cosa? Emily, vieni qui! Scopri Dishonored è quindi quello di far emergere la verità per recuperare il vostro onore, oltre naturalmente a quello di ritrovare Emily e porre fine alle violenze del regno. Tutto va in pezzi. Trova Emily, proteggila. Tu puoi farlo. Sai cosa fare. Promettilo. dovrete affrontare 9 missioni diverse per raggiungere il vostro scopo. E qui sta il bello del gioco. E per affrontarle e portarle a termine potrete decidere qualunque tipo di comportamento. Voglio dire che sarete liberi di agire furtivamente, oppure di affrontare i nemici direttamente, o di inventarvi strategie che utilizzino i poteri magici che mano a mano acquisirete. In questo senso, Dishonored è un gioco aperto, dove non esistono soluzioni preordinate, ma dove sarà la vostra creatività a fare la differenza. E perfino l'intelligenza artificiale dei nemici è stata programmata perché il comportamento sia diverso da partita a partita, e di conseguenza, se un modo di affrontare una situazione vale per voi, non necessariamente vale anche per gli altri. Corvo, l'imperatrice è morta. Sua figlia Emily è tenuta nascosta e nessuno saprà mai la verità. Ambientato in un fantasioso impero vittoriano, dove la tecnologia si unisce al fascino del passato, come ci insegnano i racconti di Giulio Verne, Dishonored è un gioco che piacerà davvero a tutti. Ai genitori nostalgici, ai figli nativi digitali, agli appassionati di fumetti, a quelli di cinema e ai divoratori di romanzi. Perché anche il doppiaggio in italiano e il racconto sono degni di nota. Diamogli un po' di tempo per pensarci. Game over. Crema Novi, un'autentica specialità, con il 45% di superbe nocciole delle nostre colline. Vi presenta Il Gastronauta. Davide Paolini, ciao, buona domenica. Buona domenica a tutti. Eccoci, dove sei di bello? Perché ogni tanto ti becco che sei... Ma guarda, io sono a Hotel Villa Torretta, sì. Tra Sesto e Milano, Milano Golosa, dove sto assistendo alla produzione del parmigiano in diretta. Cioè tu dirai, ma com'è possibile a Milano? Ebbene, il parmigiano reggiano ha una troupe, diciamo, di casari che si spostano e fanno vedere ovviamente tutto meno la stagionatura, però stanno facendo il fuoco e c'è una casara, addirittura donna, che sta mescolando e sta facendo vedere come si produce una forma di parmigiano reggiano. E all'angolo c'è un altro che sta producendo la mozzarella di bufalo, un mozzarellaio. Quindi è uno spettacolo. Quindi non senti il profumo, ma si sente, io sento un profumo straordinario. Eccomi qua. No, scusa se chiedo una cosa, visto che oggi parlavamo di uomini, tu hai detto una casara addirittura donna, perché normalmente sono sempre uomini. Ma sì, di solito c'è un mestiere abbastanza faticoso, quello del casaro, perché devi spostare le forme, insomma non è semplice. Eppure ci sono delle donne bravissime, specialmente in Emilia, magari quelle che vengono chiamate per altri motivi le asdore, le quali sicuramente in casa fanno di tutto e spostano anche quintali con una forza incredibile da lasciare allibiti molti maschi che magari non hanno quella forza. Ecco, quindi sì. Sono lavori di uomini che in realtà riteniamo noi che siano solo per uomini, certo. In realtà sono fatti molto ma molto bene dalle donne. Senti, vabbè, tu sei a Milano Golosa, ne parliamo tra poco. Volevo chiederti questo, secondo te c'è un modo diverso di porsi di fronte ai piatti e ai vini da parte degli uomini rispetto alle donne? Ma io direi di sì, guarda, più vado avanti nel tempo e più mi rendo conto che ad esempio di fronte ai vini, cioè gli uomini sono più grossolani, hanno la presunzione, abbiamo la presunzione di essere noi i veri intenditori di vino, perché magari quando arriviamo al ristorante il cameriere con la bottiglia difficilmente versa la donna, ma molte volte anche senza chiederlo verso l'uomo. In realtà ci sono stati dei cambiamenti in questi anni veramente notevoli, sempre di più vedo donne straordinarie degustatrici di vino e vedo sempre più gli uomini, come posso dire, molto indifferenti che trangugiano, mentre vedo le donne che degustano. Questo vale anche per le pietanze, secondo te, o soltanto per il... Sul piatto un po' meno. Lì c'è la presunzione della donna, secondo me. La donna, siccome lo ritiene un fatto suo, un orticello suo, secondo me è molto più meno attenta su questo. Magari se va a mangiare a casa di qualcuno, la donna critica ovviamente la cuoca di quella casa. Però le vedo meno attente e forse anche un po' meno preparate sul discorso in generale sul cibo, mentre come ti dicevo sul vino c'è questa crescita, chiamiamola così, professionale, veramente, veramente notevole. Sempre di più ci sono donne enologhe molto brave in giro per l'Italia, ma in giro anche per il mondo. In California c'è una enologa donna, la quale è un po' la regina del pino nero, la viene chiamata, quindi sicuramente c'è stato un cambiamento. Cioè vedo appunto questo cambiamento di ruoli, sul vino vedo molto la donna, mentre sulla cucina vedo sempre di più l'uomo, cioè, c'è sempre più passione dell'uomo per far da mangiare, i corsi di cucina ormai sono pieni di uomini e devo dire che le sfide tra uomini ormai in cucina sono forse più che quelle tra le donne. Va bene, poi bisogna anche metterli insieme e capire, ma va bene, insomma, poi ne abbiamo anche parlato tante volte, insomma questa differenza c'è ancora, resta, rimane uno zoccolo duro ancora per un po' a quanto pare. Ci racconti di Milano Golosa, Davide? Ma Milano Golosa è una kermesse in cui si può imparare perché c'è l'Università della Spesa dove ci sono tutte le lezioni per far meglio la spesa, un esempio, un macellaio che spiega quali sono i tagli minori che costano meno. Sull'ortofrutta c'è un discorso di stagionalità, quindi quando è meglio comprare o d'altro, sul pesce crudo come prendersi delle garanzie appunto che non ci sia anisakis e come combattere questo problema. E ci sono poi anche delle degustazioni molto particolari, ad esempio parmigiani da 14 mesi a 110 mesi e poi c'è da comprare perché c'è un mercato degli artigiani i migliori d'Italia e uno ad hoc solo per i panettoni, c'è il gotto dei produttori di panettone e poi c'è anche il vino, quindi una kermesse che ha doppio uso, però lo slogan è conoscere per non sprecare, quindi che va in linea con l'Expo e quindi tutta la conoscenza dei prodotti per far meglio la spesa e per comprare al meglio. Ecco, questo poi secondo me vale anche per tutto il resto, no? Non soltanto per l'enogastronomia, ma in generale conoscere fa sempre modo di risparmiare e di non sprecare, cioè di non magari buttare via i soldi e comprare una cosa sbagliata. E allora volevo ricordare dov'è Milano Golosa, è in via Milanese 3, siamo a Stesso San Giovanni, al Grand Hotel Villa Torretta e la Milano Golosa ci sarà fino a oggi, non so fino a che ora. Fino alle 10, ecco. Stasera. Ah, fino alle 22, quindi... Ecco, se qualcuno fosse dalle parti... E si mangia anche, e questo tu dici che è fondamentale, ovviamente, visto l'orario. Va bene, allora, chi potesse andare sa che c'è stasera fino alle 22 al Gran Hotel Villa Torretta a Stesso San Giovanni, via Milanese 3. Ti lascio mangiare a questo punto, Davide. Grazie. Beh, è un po' presto, però, ecco, datti no, da io fare. Insegno. Ah, tu ciao. Insegni. Cosa insegni oggi? Ma oggi insegno, faccio lezione con un macellaio. I tagli di carne meno pregiati, quelli del quarto anteriore, che si può risparmiare tanto ma avere anche diciamo dei bocconi prelibati. E come si cucinano principalmente? Ma si cucinano alla stessa maniera, ad esempio c'è un taglio fondamentale che si chiama diaframma nella bestia, in qualsiasi bestia, che cioè, secondo me è pregiato quanto il filetto, che costa un quarto del filetto e lo puoi cuocere come il filetto. Buono a sapersi, grazie Davide, buona giornata. Ciao, grazie. Tra pochissimo giochiamo con Picasso in 24 minuti. Vi ricordo l'ingresso a Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, che è in mostra a Milano a Palazzo Reale fino al 6 gennaio del 2013, e il bellissimo catalogo della mostra. Il numero verde per partecipare 800 24 00 24. Picasso in 24 minuti. Per voi l'ingresso alla mostra capolavori dal Museo Nazionale Picasso, la mostra a Milano Palazzo Reale fino al 6 gennaio 2013, il bellissimo catalogo e appunto l'ingresso, ammesso che riusciate a capire a quale opera dell'artista possa associare la canzone che state per ascoltare, l'indizio che vi sto facendo ascoltare, che tra poco sentirete. Il numero verde 800 24 00 24 per prenotarvi, ed ecco l'indizio. Falling. Oh, quasi per dimenticarmi i Police, ma sono passati veramente moltissimi anni. Questo è il loro, insomma, disco d'esordio, quello che hanno fatto conoscere a tutti la band, dalla quale poi emerse ovviamente Sting. Allora, Pierluigi da Arezzo, buona domenica. Ciao Pierluigi. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, questo indizio dovrebbe farti pensare a un'opera di Picasso. Tu sai dirmi quale opera potrebbe essere? Io avevo pensato a Guernica. Non è Guernica, mi dispiace per Luigi. Mi spiace. Davvero, grazie anche a te. C'è Maria Nicoletta dall'Aquila. Buongiorno. Mi ha preceduto l'ascoltatore di prima. Ti ha preceduto l'ascoltatore di prima, però tanto il quadro è sbagliato, per cui... infatti. solo che non mi viene in mente nessun altro quadro, quindi... Credo che dobbiate in qualche modo aiutarvi con la rete per avere la risposta, perché è un quadro abbastanza famoso, ma bisogna conoscere l'artista, se no la rete solamente vi può aiutare. Allora, hai riconosciuto la canzone, vero, dei Police, il Message in the Battle? Sì, la canzone è famosa, quindi l'ho riconosciuta, però non riesco ad associarla a un'opera di Picasso, probabilmente l'ho visto ma non so come si chiama. Appena sentirai il titolo ti dirai, ecco, vedi? Vedi. Ciao Maria Nicoletta. Grazie, ciao. Buongiorno. Buona domenica. 800 24 00 24, Angelo da Milano. Sì, pronto. Ciao Angelo. Allora, buongiorno a te. Qual è il quadro di Picasso al quale possiamo associare questo indizio? Sono relativamente indeciso. Sì. Io provo col primo che ho cercato e ho trovato. Chitarra e bottiglia dal basso. Allora Angelo, tu devi... Allora, facciamo una cosa. Il titolo del quadro è sbagliato. Però, siccome il nostro Carmelo Lauricella in regia ti ha detto, ti ha messo gli applausi lo stesso perché era contento, e allora comunque sia ti porti a casa il premio, va bene? Nel senso che era bottiglia di bass. Ok, questo era il titolo del quadro. Poi c'è anche un altro quadro che è una sorta di natura morta, tra virgolette, che è bottiglia di bass, clarinetto, asso di fiori, c'è un elenco di oggetti che l'artista ha disegnato in questo quadro e sarebbero andati bene tutte e due, insomma, ecco. Sì, però ad esempio nelle opere di Parigi c'è anche questa serie di studi di chitarra e bottiglia dal basso. Ecco, va bene, quindi vabbè, bottiglia di bass, questo è... E anche se detto un po' così, ti porti a casa comunque il catalogo della mostra e il biglietto per entrare. Grazie Angelo. Grazie tanto. Buona giornata, grazie. Il numero verde è 800 24 00 24. Ma prima di farvi ascoltare il prossimo indizio, perché anzi no, facciamo così, ascoltiamo prima il prossimo indizio, che è legato a un'altra opera di Picasso, e questa è facilissima, devo dirvi la verità. Ecco l'indizio. Non ti fidare d'un bacio a mezzanotte, se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla d'amore, ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica. Non ti fidare ma come farò, senza bacio a mezzanotte, ma come farò, senza baciare, se c'è la luna non mi fidare, perché perché la luna non mi guardare, mezzanotte non curiosare, riesci sempre a farla sentirella, non ti fidare di stelle galeotte, parla d'amore, che ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare, fantastica. Avevo coraggio di tagliare il bacio a mezzanotte del quartetto Cetra, questo è l'indizio, c'è Marco da Monza. Marco. Pronto, non so, io la butto lì. È facile, veramente, guarda, ti posso dire è facile. Lo so, però... Ci sono anche altri quadri con lo stesso titolo, non di Picasso, ce n'è uno molto famoso. Il bacio? Sì. Vedi che alla fine non era così difficile. Il bacio, infatti, okay. Anche per te, quindi il catalogo della mostra, il biglietto d'ingresso e grazie per aver partecipato. Grazie a te. 800 24 00 24, abbiamo un altro quadro, ma prima voglio farvi ascoltare, grazie a Luca Scarlini, scrittore che ci racconta l'arte di Picasso e vi racconta i Picasso e il suo complesso della povertà. Pablo Picasso viveva della disperazione di diventare povero. Soffriva di una malattia che si chiama peniafobia, così la chiamano gli psicologi, per cui aveva l'idea che da un secondo all'altro sarebbe diventata una delle persone più povere del mondo e per questo spesso metteva dei soldini da parte in vari luoghi della sua casa, perché non si poteva mai sapere che in un certo determinato momento questa cosa non fosse utile e necessaria. Anche al momento in cui era il pittore più pagato del mondo, continuò a pensare che ci sarebbe sempre stato un momento in cui quei piccoli mucchi di denaro sparsi intorno per la casa gli sarebbero tornati utili, perché non si poteva davvero mai sapere. Questa è un'altra delle curiosità che riguarda il grande artista. Mi fanno notare che Messon Jimmy Butler è nel secondo album, ma io avevo detto semplicemente che è la traccia che li ha resi veramente famosi universalmente, ecco questo poi. Non era nel primo ma nel secondo, va bene, mi scuso. Grazie per la precisazione. Ci sono aggiornamenti sul traffico, poi ascolteremo un altro indizio legato a un'altra opera di Picasso. Vi posso dire che è piuttosto facile anche la prossima e poi sentiremo proprio su quell'indizio Aurelia da Milano, il numero 800 24 00 24. Picasso in 24 minuti. Siamo a un'altra opera del grande artista da indovinare grazie all'indizio musicale che sto per farvi ascoltare. Sentite bene le parole di questa, secondo me, molto bella canzone, anche se poco conosciuta, interpretata da Ornella Vanoni. Ecco il fruscio di questo foglio, il suo piegarsi al mio volere, il suo lasciarsi come sempre, abbandonare, ecco, il suo stare insieme ad altri, il toccarsi con le frasi, il mischiarsi con gli accenti, mescolarsi. E per questo siamo pagine scritte bene, scritte male. Siamo storia e sentimento. Ecco, c'è uno spostamento d'aria. Siamo il segno che rimane. Anche per questo ricordarci, ricordare quelle pagine strappate, quelle vite cancellate, senza più parole, senza più parole. E per questo siamo pagine, siamo storia e geografia, storia in una fotografia. Le vedi lontano, le rondini ancora tornare, e in alto nel cielo d'improvviso planare. Questa trovo una bellissima interpretazione. Il titolo della canzone è Pagine, noi siamo pagine, dice Ornella Vanoni. C'è Aurelia da Milano. Aurelia, ciao, buona giornata, buona domenica. È ciao. Un po' poco come indizio. Le pagine però cosa ti fanno venire fa in mente? Mi fanno venire in mente donne che corrono sulla spiaggia. Che bello quel quadro. Moltissimo. Ma non è la risposta giusta. Mi dispiace Aurelia. Grazie, ciao, ciao. Andrei alla mostra, spero. Comunque Gianluca da Novara. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Allora, poi ti chiedo di la cortesia di spegnere la radio, questo è fondamentale, se no abbiamo questo effetto fastidioso. Allora, il disco, appunto, titolava la canzone Pagine, interpretata nella Vanoni, cosa ti fanno venire in mente le pagine? Ma personalmente le pagine a me fanno venire in mente i libri. Appunto, quindi quale potrebbe essere l'opera, guarda, di Picasso che... Se io ricordo bene, ma posso sbagliare e dire veramente una... di cui mi scuso, mi viene in mente che qualcuno disegnò alcune, chiamiamole, vignette inerenti al Don Chisciotte di Cervantes. Potrebbe essere stato Picasso, perché io ho in mente alcuni bozzetti e lo stile mi ricorda, però posso ovviamente sbagliare. Perché in realtà parliamo di un'opera precisa che ha un titolo. Ti sei avvicinato nel senso che hai fatto la giusta associazione, ma non è il riferimento non è a quello. Mi dispiace Gianluca. Grazie. Però potresti aver aiutato Maurizio da Lecce. Maurizio. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Ho sentito, anche poi non ho seguito per un pezzo perché sono sceso dalla macchina, vi ascoltavo in macchina venendo verso Bari, però io ho sentito la canzone dei Police. Ma qui siamo proprio all'inizio, adesso questa era un'altra canzone, Pagine di Nella Vanoni, il nostro ascoltatore ha detto mi fa venire in mente le pagine, mi fanno venire in mente i libri, e io dico ecco, allora qual è l'opera di Picasso? Dovresti forse avere la rete per avere un aiuto, o conoscere talmente bene l'artista, ma... No, io butto lì, perché io quando buttala lì, passato i Police, avevo pensato ad un messaggio, avevo pensato a Guernica. Sai che tutti hanno pensato a Guernica sbagliando, però, tra l'altro. grazie Maurizio, prego, ciao, buona domenica, grazie. Loriana da Roma. Loriana. Pronto? Pronto? Eccoci qua, Loriana. Sì, avevo messo viva voce. Figurati. Allora, siamo qua per... Allora, abbiamo capito che si tratta in qualche modo di libri, giusto? Ecco. Sì, siamo proprio in alto mare. L'opera non è il libro, tanto per... ma sì, è qualcos'altro. I libri a cosa ti fanno pensare? Se i libri sì, cosa succede? I libri sì? Leggono. Si leggono. E l'opera quindi potrebbe essere come il titolo, Loriana? La lettrice o qualcosa così? No, mi dispiace Loriana, che rabbia, ciao! Lo so, purtroppo. Lì. Grazie, ciao Loriana, ciao. C'è Beatrice da Udine, c'è Valentina da Milano. Valentina, eccoci qua. Sì, no, sono da Vicenza, ma è uguale. Ah, vabbè, è uguale, sì, infatti, via Vicenza sono attaccate. Va bene. No, allora, c'è una canzone che si titolava di Alberto Fortis, Milano e Vincenzo, ecco, quindi in qualche modo l'abbiamo salvata. Allora, Valentina, come potrebbe essere il titolo dell'opera di Picasso? Guarda che l'amica di prima si era molto avvicinata, dicendo la lettrice, in realtà... Io ho pensato alla Donna con Libro. Il quadro La donna con il libro. No. Che rabbia. Grazie Valentina, ciao. Ciao. Claudia da Padova. Sì, buongiorno. buongiorno. Ecco, ci avviciniamo un po' di più a Vicenza rispetto a prima. Infatti. Okay. Allora, 800 24 00 24, Claudia, come potrebbe essere il titolo di quell'opera che vorrei? Perché avevo pensato anch'io appunto alla mia conterranea, allo stesso titolo della mia conterranea. La donna con libro in realtà è... neanche la lettrice, ma la... Non saprei, la... Non saprei proprio, cioè la donna col libro mi verrebbe anche a me, ma... Siete non... tutti lì intorno, non è la lettrice, ma la... La poetessa? No. La scrittrice? Non è riferita a una persona. Grazie Claudia. Arrivederci. Buona domenica. Gabriella da Lecco. Pronto? Ciao Gabriella. Ciao. Allora, quale potrebbe essere il titolo? Allora, per me è Donna che legge. Non è Donna che legge. No. Non è riferito alle persone. Non c'è una persona, ok? Ma in generale parliamo di quella cosa lì. Grazie Gabriella. La lettura, la lettura. Gabriella, cosa facciamo con Gabriella da Lecco? Dai Gabriella, va bene, la lettura. Solo perché siamo, guarda, in chiusura e allora volevo finire con te, ecco, volevo finire in bellezza. Volevo finire in bellezza, regalarti il bellissimo catalogo della mostra e il biglietto per entrarci. Complimenti Gabriella, grazie. Grazie mille. Ciao, insomma, in extremis bisogna far così. Io prima di chiudere e di salutarvi volevo farvi sentire ancora una chicca da Luca Scarlini che vi racconta Picasso e l'Africa. L'arte africana arriva a Parigi verso il 1906. Comincia a essere dappertutto nelle gallerie, Picasso vede le prime opere africane nel 1907. Ne rimane sconvolto, talmente colpito, che ci sono due figure, le Demoiselles d'Avignon, nel suo quadro più famoso, quello che annuncia il cubismo, che sono delle vere e proprie repliche di oggetti di artigianato africano. Da quel momento in poi Picasso continuò per un tempo abbastanza lungo, per 3-4 anni, nel momento in cui si elaborava la fase più accesa del cubismo, a collezionare oggetti africani in cui si trovava quella stilizzazione della figura che a tutti gli effetti cercava nelle opere d'arte che in quel tempo stava sviluppando e che avrebbero cambiato una volta per tutte il destino dell'arte contemporanea. Grazie Luca Scarlini per quest'altra chicca sul grande artista. Come sempre grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Nadia Zammitti, Carmelo Lauricella in regia e a voi. Noi ci sentiamo domenica prossima puntuale alle 10 con un altro riposo del guerriero. Buona settimana da Stefano Gallerini. Oh!